YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo, anche imperdibile anche questa settimana, della settimana tra TV, web TV, social TV. Parliamo un po' di tutto quello che ha fatto scatenare il web. Daniele, questa volta in studio, ci avevi preso gusto alla trasferta. Sì, Verona un po' mi manca, però oggi è sabato e domani è domenica. E quindi? Beh, è una notizia, no? Oggi è sabato. E domani è domenica. Cioè ci sono due RadioTube, giusto? Beh, ma ci sono sempre stati due RadioTube. La domenica andavamo in onda in replica. Ecco, invece la domenica... No, non facciamo più la replica? Qualcosa di nuovo. No, ma siamo matti, ma davvero facciamo due puntate qualcosa diverse? Qualcosa di nuovo, due puntate. Però due. L'orario è lo stesso. Andata e ritorno, l'orario è lo stesso. Domenica alle 15, quindi con una puntata nuova di RadioTube. Nuova, e anche i nostri account sono gli stessi. Et di Bellasio. Sì. Il mio, per la prima volta ho detto prima il mio. Et Marta Cagnola. Sì. Cancelletto Radio Tube. Non abbiamo esagerato con l'alcol al Vinitaly. No, siamo stati bravissimi. Abbiamo imparato un sacco di cose sulla cultura. Sì, anche vino, sul vino, sì. E siamo passati dal vino al Salone del Mobile. Milano è in effervescenza. E noi siamo effervescenti? Sai? No, a proposito, non no, so, perché sembriamo poi un po' ubriachi. No, non lo siamo, non ma lo eravamo no, neanche no, in Italy. Assolutamente, anzi, dai, allora, felici passiamo, di essere raddoppiati. Passiamo ai video virali della settimana. Sì. Intanto, vabbè, abbiamo parlato tantissimo, siamo stati tra i primi a parlare di Suor Cristina. Diamoci questo certo, merito. Certo, ormai certo. È arrivata a miliardi di visualizzazioni, ma ha un ci sono state anche avversario. Polemiche, interviste, sì. Ha un concorrente. Ha un concorrente, sì, no, no. Infatti, no, anzi, avversario pare che a The Voice rischi di non averne, quindi quello è il problema. Perché, cioè, ha già vinto praticamente. Eh beh, insomma, il rischio è che la gara sia un po'. Tutti contro Suor Cristina. Beh, però questo rende interessante. È bello. Vabbè, vedremo dalla prossima puntata. Sono finite le blind auditions, ma ne parleremo. Sì. Perché c'è il concorrente di Suor Cristina. In realtà virtuale, nel senso che non partecipa a nessun talent. Io però vorrei farvi ascoltare un pezzettino di questa voce. Facciamo tipo blind audition. Una solo, diciamo. Una solo e poi vi spieghiamo chi è. Vabbè, insomma, il pezzo lo conoscono tutti perché è l'Alleluia di Leonard Cohen, poi diventata famosa nella versione di Jeff Buckley, e chi canta è un sacerdote, beh, è un prete giusto, irlandese. Alleluia. Certo, Ray ha Kelly. Ha un matrimonio. Ha un matrimonio. Pensa che lacrimoni tutti col parroco che si mette a cantare questa Alleluia. Ti ricordi che tempo fa in Italia c'era stato un altro sacerdote che aveva fatto la stessa cosa ma con una canzone dei ricchi e poveri. Sì. Non mi ricordo qual era. Non mi ricordo, forse era Mamma Maria, sì. Perché c'era Bacari. Però si può, i matrimoni in giorno di festa, si può. Beh, poi non comunque lo so, io non una sono voce esperta discreta. Di matrimoni. Ma bravo. Non ancora, c'è sempre tempo. Ci potrebbe essere magari, chissà, un duetto un domani tra padre Ray e suor Cristina. Che lui sta a Old Castle. In Irlanda. Bello. Senti qua come canta. Ray Kelly. Sai cosa è stato anche virale questa 240.000 settimana? 240.000 visualizzazioni. Sì, scusami, guarda, ma rispetto a suor Cristina stiamo parlando di no, insomma un dilettante, cioè, certo, siamo anni certo. Luce beh, sì, non ha ancora avuto gli endorsement delle stars. Ah giusto, VP. Altro video virale di questa settimana. Io mi sono divertita molto perché lei è una straordinaria, una donna straordinaria. Guardiamo insieme e commentiamo insieme il video perché è in inglese. Mostri, perché sì. È in inglese. Allora cominciamo a mostrare questo video. What was that, a bat? Allora, lei è Hillary Clinton, le hanno lanciato qualcosa attorno. Intanto dice, what was that about? Cioè, un pipistrello, cosa mi è capitato addosso? Lei era a una conferenza sul riciclaggio dei metalli a Las Vegas e una donna le ha tirato una scarpa. Ma la cosa straordinaria di questo video di Hillary Clinton è che lei intanto ha chiesto... Cioè, perché ma... questa è una cosa normale per te. No, beh, già questo... uno tira una scarpa al prossimo candidato democratico, forse, non si sa, ex first lady. Comunque... ma lei ha già dimostrato di sapersi difendere, perché intanto ha chiesto, ma fa parte del Cirque du Soleil? Ah, carina, sì. E poi dice, vabbè, non credevo che il riciclaggio dei metalli fosse un tema così controverso. Sì, anche lei che c'era, comunque, insomma. E poi ha detto, grazie al cielo che lei, non ha, siccome l'ha mancata, non giocava a softball come facevo io. Che softball è molto importante. Comunque tre battute vuol dire che è in pista per le prossime presidenziali. Sì, sì. E sulle presidenziali non abbiamo la par condicio, sulle presidenziali americane. Anche su quelle americane, non possiamo neanche citare nemmeno House of Cards. Cioè qua tutti ne parlano. Anche quello. Io ho già messo registra tutta la serie. Straordinario, collega tutto e chiuditi tutto in casa. Una roba tutto del genere potrebbe succedere in House of Cards. Ti sto per fare un regalo. Sai ma perché? Che regalo, sai, quello che penso io è un momento di tristezza. No, dai, di TV, tra poco TV parliamo lacrimosa di Inter. No, non parliamo di Inter, è dai, inutile sì, che stai cercando di cambiare argomento. Io sono disperato, un uomo dal cuore spezzato. Radio Tube. Dai, Daniele, parliamo di calcio. Prima però posso ricordare due cose. Uno, i nostri account di Twitter, quelli. Chiocciola di Bellasio, chiocciola Marta Cagnola, l'hashtag RadioTube. C'è anche il podcast. Ah, ti ho interrotto subito. Vedi, io ci tengo tanto. www.radio24.it. Bravo! C'è il palinsesto, trovate il podcast di tutte le trasmissioni, compresa RadioTube. Cioè, trovate il podcast di tutte le trasmissioni, ma voi vi iscrivete a quello di RadioTube. Esatto, anche sì. Sì, no, noi ci teniamo a quello. Poi vabbè, dunque, siamo sportivi, potete anche ascoltare il resto. Però RadioTube, insomma, ci teniamo particolarmente. Come allora, ci teniamo particolarmente al calcio? Pronto a scattare? No, allora, il personaggio della settimana, ma non del calcio, di qualunque cosa, siamo alla fredda cronaca. Il video più visto, quantomeno da me, questa settimana, non lo possiamo dare alla radio perché era totalmente senza audio. Sì. È il video del miglior allenatore al mondo. Nonché filosofo, nonché scienziato della comunicazione, ovvero José Mourinho. Nonché gran bell'uomo, posso dirlo. Beh, questo l'hai detto tu, mi sembra logico che gran tu possa dirlo. Sì, sì. Che quando il Chelsea vince, ho detto giusto, vince, elimina il Paris Saint-Germain, fa l'impresa, l'ennesima impresa, mette a correre come un pazzo con la sua giaccavento perché era nella sua versione casual, non nella sua versione stylish. Yes. Corre verso i giocatori, li abbraccia, non c'è audio, era su tutti i siti del mondo perché il personaggio della settimana che ha fatto ancora una volta l'impresa è José Mourinho. Ma cioè, tu perché sei così affezionato a Mourinho? Sarà mica perché sei un filo interista? No, ma perché lì, ma si va oltre. Qui è un personaggio veramente che va... Cioè io sono, in questa fase, sono stato più murinista di interista. E per me essere interista è già tanto. Io infatti, più che Amala, hashtag dell'Inter, nonché titolo del libro di Nicola Mirenzi che abbiamo al telefono, io direi Amalo, Nicola. Ciao. Eccolo qua. Io sono proprio spaventata perché in diretta con due interisti così, sì, come Daniele Bellasio, pensare perché siamo un po' discordi su più punti. Lui è un po' collaborazionista. Lo so. Nicola, allora è davvero, nonostante non sia più, lo diciamo perché magari tutti sanno che non è più l'allenatore dell'Inter. Un po' lo è ancora nei nostri cuori. Nel cuore. Nicola, sei d'accordo con Daniele che sì, su Mourinho andiamo d'accordissimo. Lui effettivamente in realtà non dice di essere il migliore allenatore del mondo, ma lui dice, ma penso che nessuno sia migliore di me. E questo è un po' Mourinho, diciamo, nel senso che è un personaggio che riesce ad essere effettivamente un grandissimo allenatore, ma anche un personaggio di spettacolo, del mondo dello show calcistico, no? anche se a volte questo suo lato, diciamo, da showman oscuro un po' l'altro, che è quello di un grande stratega calcistico, tant'è vero che Daniele ha ricordato la corsa che lui ha fatto dopo il secondo gol del Chelsea, ma lui è arrivato in fondo, è andato dai giocatori a dirgli cosa dovevano fare dopo, più che a festeggiare insieme a loro. Allora, intanto io ricordo per bene il titolo Amala, con l'hashtag Amala, sì. Il manuale di chi ti fa Inter per Fandango, ed è il libro di Nicola Mirenzi, che peraltro poi lavora per Europa, che peraltro è, esatto, un bravissimo collega di Europa, ma c'ha questa cosa dell'Inter che deve uscire in qualche modo e quindi editorialmente, insomma, deve scrivere, cioè, perché voi interisti non ce la potete fare senza. Ma visto che abbiamo parlato di viralità e di Mourinho, lui è stato sicuramente uno dei... Vai a vedere il numero di visualizzazioni ancora oggi. Eh sì, perché è stato sicuramente uno degli inventori, cioè degli hashtag prima che ci fossero gli hashtag, perché esatto, io vorrei tornare... Mi piace questa cosa, tipo zero titoli è un hashtag. Sarebbe stato un hashtag nel 2009, quando l'ha coniato e lo coniò proprio qui. Negli ultimi due giorni non si è parlato di una Roma con grandissimi giocatori, con tanti giocatori che io volevo avere con me, e che finirà la stagione con zero titoli. Non si è parlato di un Milan che finirà la stagione con zero titoli e che con giocatori, con tradizione, con cultura vincente, con tutto che una squadra bisogna per vincere titoli. Non si è parlato di una Juve che ha vinto tanti punti, ma tanti punti con errore arbitrale. Vabbè, José la Juve deve... Alzo le mani, perché lui è un copywriter straordinario, cioè questa di zero titolo. Ma non è l'unica. Ve ne mostrerei anche un'altra, anzi una piccola compilation che vi ho preparato di alcune piccole chicche di José Mourinho. Chiamale piccole. Andiamo al sì, al no, al politicamente... corretto, andiamo al medioevo. A me non mi piace prostituzione intellettuale. Negli ultimi giorni, grandissima manipolazione intellettuale, ma grandissima. Settimana scorsa diceva già che io ero l'ex allenatore dell'Inter, però non sono l'ex, sono l'allenatore dell'Inter. C'è solo uno, non ci sono gli altri, c'è solo uno. Non mi interessano tutti gli allenatori, c'è solo uno. Quando il dottor Moratti decide... Mourinho a casa, però mentre sono allenatore dell'Inter c'è solo uno. È una domanda o un libro? Non capisco nessuna delle due domande. È stato divertente. Beh, è una domanda e un libro straordinario. Sì, devo dire che questo rapporto con i giornalisti. Nel libro di Nicola si parla molto di questa cosa. Del rapporto con i giornalisti, sì, paura. Io sarei terrorizzata dal parlare con Mourinho. Mi farebbe una paura pazzesca. Se non a cena, diciamo. Beh, sì, lì mi potrei anche adattare. Devo dire che appunto questi video non possono essere considerati all'epoca video virali, perché il fenomeno così della circolazione... Però lo sono diventati col tempo. Sì. Perché YouTube è piena di compilation, di best di Mourinho, di video anche fatti da appassionati. Non c'è niente da fare. Sai qual era così il suo segreto? Dimmi. Diceva la verità. E però la dice anche bene. Diceva la verità, e quindi era rivoluzionario nel mondo del calcio. Nicola, che ne pensi? Penso che sia esattamente così. E poi si è trovato anche in un mondo che è quello dell'informazione calcistica italiana, che era molto ipocrita, no? E quindi c'è stato questo scontro tremendo, che poi l'ha portato ad andarsene, perché lui non si è mai sentito a casa in Italia, cioè si è sentito a casa e penso che forse tornerebbe addirittura all'Inter. Mi viene quasi da piangere a riascoltarlo dire io sono un allenatore dell'Inter, però effettivamente lui non ha mai avuto un grandissimo rapporto con i giornalisti italiani e con l'ambiente italiano, perché aveva una patina di ipocrisia che reagiva invece con questa tensione alla verità di Mourinho, no? Ragazzi, io lo so che appunto sognate il ritorno. No, io ma sai che Nicola non tanto nel libro dice che dobbiamo noi interisti crescere, non dobbiamo rimpiangere. Io sono d'accordo, però vi farei riascoltare questa sua affermazione, tra Cardine. L'altro, c'erano tra i colleghi che seguivano appunto José Mourinho, c'era anche il nostro Pierluigi Pardo. Anzi, credo che la domanda la faccia lui. Vorrei ricordarvi che da questa settimana tutti i convocati si è allargati, sì, è diventato un po' più, questi ragazzi sono fino alle 16, insomma, sempre più convocazioni. Sempre più convocazioni. Ma cosa ha risposto José Mourinho? Tornerebbe all'Inter? Ecco, riascoltiamo Mourinho, ecco cosa ha detto. Sì, bene. José, ti manca l'Italia? No, non posso pensare così. Però l'Inter, ti aspettavi un altro grande acquisto o basta l'Inter così com'è? Tu ti saresti fatto comprare un altro grande giocatore? Ui, no, non posso parlare dell'Inter. Ma un giorno in un futuro potresti mai tornare all'Inter? Perché no? Un saluto ai tifosi dell'Inter? Sempre, voglio che vince tutto, però non la Champions, perché la Champions la volevo vincere io se possibile, però io sempre con l'Inter, sempre. Cioè voglio vincere, l'Inter deve vincere tutto, non la Champions, perché quella la voglio vincere io. Vabbè, che però dire? Con l'Inter sempre. Beh, devo dirti, io da non interista, però non posso non apprezzare il personaggio. Quando si parla di arte, non posso non apprezzare il personaggio. Nel calcio non è che ce ne siano poi in questo momento, secondo me, nel calcio italiano così. Ma Conte comunque, Conte è un altro tipo di personaggio. Un altro bell'uomo. Ma Nicola, tu che dici? Penso che Conte sia lo special two, nel senso che ha studiato Mourinho alla perfezione e un po' ci assomiglia, nel senso che nel modo di comunicare con i giornalisti, ma anche per come riesce a galvanizzare i suoi, a tenere alta l'attenzione, a tirare fuori alcune risorse dei calciatori che dirige, in questo è molto simile a Mourinho. Penso che lo abbia molto studiato, infatti lo potremmo chiamare Contigno. Eh sì, sì, Special bello, tu mi bello, piace come hashtag. Piace. In effetti la grande capacità di Mourinho era proprio quella di infondere a un gruppo di persone il carattere di una singola persona, cioè lui stesso. Io vi vorrei invece citare un altro video che è stato virale questa settimana, anche quello non si può ascoltare perché si capisce poco, ed è l'intervista a Mourinho, e mentre Mourinho viene intervistato arriva Ibrahimovic, quindi rivalità a parte, e lo abbraccia e gli fa i complimenti. Cioè fa proprio un'irruzione, un fotobombing di Ibrahimovic nell'intervista a Mourinho, e mi è piaciuta molto perché... Insomma, beh, allora a questo punto seguiamo il consiglio di Maria Luisa Colledani, anche questa settimana, collega del Sole. Che prima o poi vorremmo, non so. Comunque, e rubando Genignocchi la rubrica sulla Gazzetta, dice Mu, due punti, ho ricevuto tante telefonate di complimenti, ma quella che mi ha fatto più piacere è stata quella del mio vice, Papa Francesco. Ah, beh, ragazzi. Questa, è un periodo, sì, di sicuri di sé, diciamo così. Sì, è un periodo di sicuri di sé. Nicola, allora, tu davvero non sei lì a sperare nel ritorno? Perché qua, insomma, lui ti ha detto perché no. Ho cercato di fare un po' di autoterapia, cioè per superare il lutto, quindi mi dico dobbiamo, ma in realtà dentro di me spero, come tutti gli interisti, che lui ritorni e ci riporti alla vittoria. Forse l'unico che potrebbe colmare il vuoto in questo momento è Simeone, che sta facendo grandi cose con l'Atletico Madrid, è anche un ex calciatore dell'Inter, quindi forse solo lui potrebbe in qualche modo colmare. Quindi meglio vuoto. Lui di Sinisa, Mihajlovic. Meglio Simeone, tu dici? Io no, chiedo. Io forse ho una leggera preferenza per Sinisa. Io invece tendo per Simeone. Forse la nostra diversità nell'interismo questa, che ci fa pensare a due cose diverse. Sfumature di 50 sfumature di interismo. Che bello sentirvi parlare di calcio. E tutto ciò è molto bello, ma noi ma dobbiamo, tempo, dobbiamo anche interromperci. Triplete, però sai, Daniele, ti concederò di parlare ancora di calcio in questa puntata una di Radio punta, YouTube. Un'antichia. Sì, vabbè, un pochino sì, dai. Sì, dai, così facciamo una puntata molto ricca. Ciao Nicola, saluto il direttore Stefano Menichini. Un abbraccio a Nicola Mirenzi. Io ricordo ancora Amala con l'hashtag Il manuale di chi ti fa Inter di Nicola Mirenzi. A presto Nicola, grazie. Ciao, grazie a voi. Radio Tube. Beh, Daniele, non sei contento che abbiamo parlato molto di calcio? Dai, magari torna Mourinho, dai, sorridimi un po'. Ho dimenticato il fazzoletto. Del resto è tornato al Chelsea. mai dire mai. A volte no? Ritornano, a volte ritornano. Comunque, cambiamo squadra. Sì. Cambiamo squadra e parliamo di qualcosa che è successo questa settimana in una rete locale. Una lite tra un conduttore e una conduttrice, perché lei, insomma, stava parlando su Canale 9 a Goal Show di qualcosa, sì, che riguardava il Napoli, Napoli, e il conduttore ha detto: tu non sei obiettiva perché sei fidanzata con il vice di Mazzarri. Vabbè, ma è tipo... Vabbè, magari non lo so. Ma a parte che vero, non è che gliel'ha detto, cioè, con questi, in questi termini, è un po' più... Non lo so, anche perché io la signora Yolanda De Rienzo non la conosco, ma guardiamo cosa... Però non si tratta così. Ma sentiamo cosa è successo intanto. Torniamo a parlare del Napoli di oggi, perché comunque di che cosa stiamo parlando? No, perché con il paragone nei confronti del Napoli del passato io riesco a parlare obiettivamente di entrambi i Napoli. No, va bene, ne parli della professionalità di una persona, io riesco a esprimere la mia opinione, credo di non essere assolutamente d'accordo. Eccoci qua, allora, io riesco a parlare obiettivamente e lui dice: no, tu non riesci a parlare obiettivamente perché sei emotivamente coinvolta. No, ma soprattutto poi a un certo punto gli dici: se non ti sta bene vai via. E poi le sei, cioè, certo. Ma ho capito, ma ti pare logico? Ma in quanto una trasmissione... è difficile essere obiettivi sul calcio, sulla politica? Poi in questo periodo, lasciamo perdere con la par condicio. Sì, boh, non lo so, è difficile esserlo in generale, ma certo non si può dire a una persona così in diretta, cioè, al limite si critica quello che ha detto. Abbiamo parlato di calcio e lui è un tifoso, sì, io lo so che è un tifoso, è un giornalista e quindi sa esattamente come dobbiamo comportarci in questo periodo di par condicio nel quale io sono terrorizzata. Utilizza molto bene i social network, straordinariamente, con assieme notizie, con poesia, certo, straordinario. Fotografie. Io estreme. Però vorrei introdurlo con una sigla a me molto cara. La sua sigla, la sua, e per qualche settimana anche mia, tanti anni fa. Eccola qua. C'era il bianco e nero. Beh, tutti hanno capito di cosa si tratta. E di chi stiamo parlando? Buonasera, direttore Clemente Mimoun. Ciao, come si dice? Questa è musica per le mie orecchie. Beh, devo dire che io sono affezionatissima al TG5. Io sono affezionatissima. Non puoi essere obiettiva. Tu. Non posso essere obiettiva. Allora riesco a parlare obiettivamente del TG5. Di qualcuno dei miei? No, pensa, direttore, sono stata stagista del TG5. Ah, okay. Ma era l'altro millennio, però. Cioè, è poco tempo fa comunque. Beh, mica tanto, però non importa, il TG5 è giovane. Direttore, sono momenti difficili per chi si occupa di informazione. Noi litighiamo in tutte le puntate con la par condicio, perché... Io faccio il direttore da 20 anni, quindi ho fatto tante di quelle campagne elettorali che non avrei difficoltà ad enumerartele. Io mi comporto cercando di essere obiettivo, dopodiché i numeretti ogni tanto me li danno gli uffici aziendali, e se c'è qualche cosa che non va la mettiamo a posto, nel senso che te ripariamo, tra virgolette. Ma è una delle leggi più folli che sono mai state messe insieme dal Parlamento. Qual è l'aspetto che secondo te è più assurdo? Non c'è nulla di male, anzi sarebbe male il contrario a pretendere imparzialità e pluralismo, soprattutto durante le campagne elettorali. Ma mettersi lì a misurare giorno per giorno, settimana per settimana e non su tutto il periodo è un'angoscia assoluta. Comunque, come dire, la legge c'è, la si applica e noi la applichiamo, per quanto mi riguarda, subendola. Qualcuno ha pensato che gli italiani siano così sciocchi da farsi condizionare in modo decisivo da parte dei media. Gli italiani hanno le loro idee, vedono come vanno le cose e decidono di volta in volta, altrimenti come spiegare l'exploit tanti anni fa della Lega o di Grillo alle ultime elezioni? Direttore, noi ci occupiamo di televisione, ma anche di fenomeni legati alla rete, quindi della social TV e dei social network. Tu hai un modo molto molto interessante di utilizzare soprattutto Twitter, perché da un certo punto di vista lo utilizzi da giornalista e sei anche una fonte di informazione per chi ti segue, perché i tuoi 41.000 follower e oltre hanno comunque una sorta quasi di agenzia, perché tu dai delle informazioni. Però ti esprimi anche con le fotografie, raccontando Roma. Guarda, io trago spunti per il telegiornale, perché spesso arrivano delle notizie dai da chi mi segue, quindi io posso dirti che almeno il 20% del telegiornale è condizionato da Twitter, nel senso che o perché la gente parla di un argomento in modo particolare o perché c'è qualche informazione che arriva anche da qualche paese che è poco coperto dalla stampa o dalle agenzie, e da lì si prende spunto. Poi do informazioni, ma lo stato puro, la mattina o quando ho un attimo di tempo, esprimo opinioni, difendo la mia città, Roma, dalle sciocchezze che fanno i politici locali, perché purtroppo non c'è, come si dice al peggio, non c'è mai fine. Parlo con i miei fratelli tifosi razziali e mando a quel paese gli stalker. Ecco, gli stalker, argomento sempre d'attualità quando si parla con un personaggio pubblico, perché Twitter avvicina nel bene e nel male. Sì, sì, ma io lo mando quello a quel paese direttamente, perché cioè, blocco subito, perché non faccio un uso politico di Twitter, io ne faccio un uso di lavoro e come dire, come passatempo a volte, no? E se, siccome sono uno che si sveglia molto presto, sì, si vede, vado a dare un'occhiata e poi a seconda di quello che si trova sulle agenzie eccetera, se c'è qualche notizia di interesse la do, ma come dire, non, diciamo che Twitter è un po' il mio giornale personale, mentre il TG è naturalmente un editore eccetera, il tuo tweet è una cosa personale, non è legata alla tua attività di tutti i giorni. Così presto la mattina ci sono due persone su Twitter che twittano, Mimun e Matteo Renzi praticamente. Beh, esatto. Cioè, la fase più mattinieri. Direttore, come ti è venuto in mente questo racconto che io trovo molto bello per immagini e emozioni di Roma, soprattutto appunto nei tweet della mattina? Cioè questo... Ma perché, no, intanto perché io faccio... Allora, la sede del TG5 è un posto stupendo che è a Palatino, quindi siamo in mezzo al verde e in mezzo alle antichità. Dal mio ufficio, quando fa sera, non si vede una luce, ma si vedono soltanto in lontananza Caracalla e altre antichità, quindi è un posto magico. E per raggiungerlo attraverso la parte più bella della città. E quindi ogni volta, io, siccome Roma non è un'emozione al passato, ma un'emozione continua, faccio vedere le cose più belle, ma anche le cose più brutte che vedo. Con le sedute che vedo, ti faccio un esempio, c'è stato per 15 giorni davanti all'ambasciata americana una serie di pali a terra perché evidentemente una macchina aveva sbagliato una manovra, e miracolosamente dopo 15 giorni in cui c'era questo ciarpame in giro, arrivava Obama e improvvisamente tutto è diventato nuovo e bello, no? Immaginare che la capitale d'Italia sia preda dei mal di pancia di questo e di quello è terribile. Noi abbiamo il massimo numero di manifestazioni, il massimo di inciviltà da parte dei turisti non puniti. E tutto questo mi fa rabbia, perché se tu vai a Londra e provi a tirare un pezzo di carta nella fontana a Trafalgar Square, improvvisamente arrivano due bobbies e ti fanno una multa. Se a Roma danneggi una cosa del 400... ti fanno totò sulle manine, capito? Non va bene. Concordo al 100%. Io però voglio affrontare un ultimo argomento, che è quello del calcio. Sì, perché è un po' il centro della puntata. Eh beh, sì, questa è una puntata in cui parliamo tanto di calcio. Abbiamo parlato di Inter, ma adesso parliamo delle squadre romane. Ma non abbiamo parlato di Inter, abbiamo parlato di Mourinho, è diverso purtroppo. Abbiamo parlato di Inter. Adesso parliamo delle squadre romane. Io non parlerò della mia appartenenza calcistica, parliamo dell'appartenenza calcistica del ministro Padoan. Niente po' di meno. Padoan con l'accento sulla prima. Che non è la stessa del direttore Mimun. No, sentiamo cosa è successo con Matteo Renzi. Il ministro Padoan ha vissuto questa giornata con grandissima difficoltà, non per le considerazioni che voi immaginate, adesso tensioni, per le quattro giornate al... No, non si sente da ridere. Stamani mattina, peraltro, è stato oggetto di una lunga discussione circa la prova TV e la correttezza di questo intervento, ma io non posso dire niente. Stiamo parlando di destro, del centravanti della Roma, e il ministro Padoan è notoriamente un tifoso laziale, per cui su queste cose le soffre. La parola al ministro Padoan, se ha ancora voglia di parlare dopo la definizione di laziale. Come sa il Presidente del Consiglio, io ho in tasca la lettera di dimissioni se continua a provocarmi sul terreno calcistico. E qui non stiamo parlando di politica, stiamo parlando di calcio. Tra l'altro il direttore Mimoun ha twittato proprio in quel momento lì: se destro è un violento, io sono Dillinger. E anche lì, direttore, poi hanno risposto tutti al tuo tweet dicendo: ah, ma difendi i romanisti. Insomma, poi succede di tutto se twitti di calcio. Intanto difendo Yolanda, che è quella, sì, quella signora che è stata maltrattata da qualcuno che aveva voglia di andare a finire su YouTube, e c'è riuscito. Ecco, però non si tratta così una signora mai, meno che mai senza argomenti. Per quanto riguarda Padova, è evidente che lui ha considerato un'offesa essere definito laziale da Renzi, perché lui è evidentemente romanista e era di cattivo umore perché hanno dato 4 giornate a destra. Sì. Io penso che il calcio sia uno sport fisico dove si danno e si prendono, e alla fine della partita la questione dovrebbe essere risolta, perché poi non dico che si fa come nel rugby dove la tradizione è più nobile, ma insomma alla fine della partita generalmente i giocatori vanno negli spogliatoi e difficilmente avvengono viste nel sottopassaggio, no? A me è capitato tanti anni fa, dopo che Totti era stato espulso dagli europei per una cosa non carina fatta a un giocatore avversario, Poulsen, di trovarmelo in Sardegna in vacanza, e mi ricordo che ho passato diversi minuti a consolarlo spiegandogli che se un giocatore nella furia agonistica viene provocato e reagisce, secondo me fa anche bene, no? L'importante è restare in un ambito, evitare le violenze, quelle vere. Destra ha fatto un errore, adesso buttarlo fuori per 4 giornate in un momento topico del campionato, eliminarlo dallo stage o dallo stage della nazionale, eccetera, eccetera, mi sembra una pura sciocchezza. Dopodiché, tra qualche settimana lo richiameranno d'urgenza perché alla nazionale sarebbe per il mondiale, e avremmo fatto perdere delle settimane, dei giorni importanti per la preparazione. Sono d'accordo con che si può essere obiettivi. E poi si può essere d'accordo con l'iniziale. È come se mi chiedono un giudizio su Totti. Totti una volta ha esibito una maglietta volgare dopo un derby contro la Lazio, ma se qualcuno mi chiede se è un campione, è certo che è un campione. Sì. Grande campione, direttore. Basta. Grandissimo direttore Mimoun, io ricordo che è stato nei trending topic questa settimana anche l'hashtag è stato destro, sì, perché ovviamente tutti si sono divertiti ad attribuire qualsiasi nefandezza. Quando qualcuno è di destra o di destro, colpiscono a prescindere. Direttore, Dio non gli hanno dato i domiciliari. Grazie direttore di essere stato con noi, continuiamo a seguirti su Twitter. Ciao, mi raccomando, sempre queste foto bellissime di Roma che ci aprono il cuore. Un bel risveglio la mattina. Meraviglia. Grazie direttore, a presto. Beh, abbiamo salutato il direttore Mimoun, abbiamo solo un altro piccolo spicchio di RadioTube per stare insieme e ridiamo tra poco. Ridiamo un po' di comicità. Alla grande. Oh, finalmente. Senza par condicio. Dopo aver pianto per Mourinho. Senza par condicio. Che fine ha fatto? Par condicio, stai serena. Ne parliamo tra poco. RadioTube. E come passa il tempo quando ci si diverte, ma appunto, noi adesso raddoppiamo, facciamo 3, 2 15, puntate di RadioTube, non facciamo più la replica. Un po' più breve, alla grande. Sì, un pochino, ma d'altronde, cioè c'eravamo anche un po' annoiati con questa ripetizione, con queste repliche, aria nuova, primavera, non ripete, sì, antistaminici a profusione, non parliamo più di calcio, non parliamo più di Inter. No. Anche se non abbiamo parlato, ma ho un po' di comicità. Abbiamo avuto per tante puntate i comici che parlavano di politica, ma qui questa par condicio. Allora abbiamo detto, ma perché non spaziamo invece, non andiamo a trovare i comici che ci fanno ridere, che non necessariamente parlino di politica. Che peraltro mica è un merito. Ma sai che forse è anche più difficile? Certo. Perché la politica poi offre sempre degli spunti, invece... Beh, soprattutto la nostra, è facile, un copione già scritto. Nel nostro caso è difficile superare quello che fa. Quindi però, vuol dire essere originali. Dico subito che saranno il 15, 16 e 17 aprile al Teatro Franco Parenti di Milano, così facciamo anche un po' di pubblicità al teatro. Che è un gran bel teatro. Ecco, e poi bisogna andare a teatro. Con Paradossi e Parastinchi, chissà se ha a che fare anche questo col calcio, abbiamo Maria Di Biase e Corrado Nuzzo. Buonasera. Buonasera. In coro, da due telefoni. Certo. Nuzzo. Eh sì, no, anche perché lo so che si dice Nuzzo e Di Biase, però io presento prima la signora. Certo. Brava. Eh sì, no, capisco che Nuzzo Di Biase suoni meglio che Di Biase Nuzzo, perché hai effettivamente... visto, infatti... È stato quello il motivo per cui siamo arrivati alla soluzione Nuzzo Di Biase. Eh sì, perché Di Biase è più musica. Nuzzo è cacofonico. Se più Nuzzo Di Biase funziona bene, però bisogna prima le signore. Cagnola Bellasio. Cagnola Bellasio. Se non lo stesso, facciamo le prove, Daniele. Sì, fate le prove. Paradossi e parastinchi, c'entra qualcosa col calcio? Perché in questa puntata noi abbiamo parlato tanto di calcio. Beh, insomma, voi tanto parlate... di coppia, è inevitabile, del comico e del grottesco che c'è nelle persone normali. Sì, noi non parliamo di calcio, ecco, non vorrei allontanare del pubblico, però insomma ci occupiamo e abbiamo preso in prestito questa frase che dice: la scienza studia i pazzi, noi indaghiamo i disastri che fanno le persone normali. Ci entra anche della satira, di costume, però insomma è una cosa che arriva in secondo piano. All'inizio noi vogliamo proprio approfondire quello che riescono a fare due menti mettendole in rapporto. Ragazzi, voi detto non parliamo di calcio, però il calcio vi trovate a frequentarlo per forza in televisione in qualche modo, con quelli che facendo quelli che il calcio, sì, di colpo io non pensavo che la mia vita potesse dipendere dal campionato, invece sì. Questa domenica non ci siamo, non c'è campionato, dico che no, tra l'altro io mi diverto tantissimo quando iniziate uno sketch e segna qualcuno e vi interrompono e alla seconda terza volta Maria dice: vabbè, se dovete segnare segnate tutti adesso e basta. Cioè, è che, no, anche sì, perché non è facile. Domenica scorsa non ce l'ho fatta più. Sì, però diciamo che i gol, siamo in un programma che parla di calcio, quindi è normale che ci siano, tranne l'Inter che non segna mai, quindi ma beh, però allora proprio volete farmi finire di fare gli sketch durante l'Inter. No, però... ma questa è una cosa cattivissima. Povero Daniele. Abbiamo una piccola parentesi, siamo interisti. Siamo interisti. E abbiamo allontanato un altro po' di pubblico dal nostro spettacolo. Ma non è vero, soprattutto a Milano, non scherziamo qua. Arriveranno dall'Indonesia per vedere il vostro spettacolo. Esatto, paradossi e parastichi con i charter dall'Indonesia. Tu non hai capito perché, ma non importa. No, però ho studiato tutto. Hai allora, studiato il calcio? Io ho rubato un pezzettino di uno sketch che interrotto che fate... da un fuorigioco? No, questo no, perché filmato non li possono interrompere. Ah, ok, perfetto. Da quelli che a me fa particolarmente ridere, io lo mostrerei alla radio, no? Sì, lo mostro agli ascoltatori. Ecco qua Nuzzo Di Biase. Tristan fa ritorno a casa. Madre, io amo Pepa. L'amo! Ma quella è una addescatrice, una passeggiatrice, una meretrice. Non è vero, è solo una levatrice. Passeggiatrice, meretrice e levatrice. Come la chiami, la chiami? Sempre so prima. Non li ho messi io i beep, perché no, erano. No, i beep c'erano. Beh. L'avevamo già bippati noi. Sì. Beh, ragazzi, devo dire che la televisione vi dà un sacco di possibilità di satira, però, a quelli che. Perché tra Il Segreto e C'è Posta per te, anche quello è straordinario, ve ne dà di materiale anche la TV. C'è una perla pure, che è un altro certo, che sta divertendo certo, tantissimo. Certo. Sì, devo dire, noi siamo arrivati in età matura a fare a citare la televisione. Devo dire con grande divertimento, ci sta veramente divertendo farla. Ci diverte quasi anche il fatto che ci interrompono durante per i gol. C'è un questo più Corrado, io mi diverto meno. Ragazzi, io però prima di salutarvi vorrei sentire un altro pezzettino della... Questo è il vostro C'è Posta per te. C'è solo Maria, e non quella Maria, perché quella Maria è fatta da Rossella Brescia. Io ho riso tantissimo per questa battuta. Ci ho riso mezz'ora e me la riascoltavo perché mi faceva troppo ridere. Sentiamo. Gabriella, buongiorno, come va? Vuole un bicchiere d'acqua? No, ho già bevuto tanto che devo drenare, ma... Mi piace tantissimo, ho già bevuto tanto che devo drenare. A me ha fatto impazzire perché, cioè, è troppo bello. Quella è proprio improvvisata lì, devo no, dire. No, dai, bellissimo. Ah. Maria, sì, io so. È venuta là con una coppia, un sodalizio artistico nato 12 anni fa, si può fare, ci vuole una certa affinità. Daniele, ci arriveremo anche noi tra a 12 anni. Se ci arrivi tu. Ma se ci arriviamo già a 12 puntate. Non abbiamo ancora deciso da Cagnola Bellasio, Bellasio Cagnola. Intanto però... adesso allora facciamo questa riflessione, perché siamo arrivati alla fine di Radio Tube. Oh, ci dispiace, però andremo a teatro a vedere. Andiamo al Teatro Franco Parenti, 15, 16, 17. 15, ah, 16, 17 aprile 2014. Eh sì, ci siamo quasi. Io devo ringraziare tanto prima le signore Maria Di Biase e Corrado Nuzzo, cioè Nuzzo e Di Biase. Grazie, e allora a prestissimo a teatro. Grazie a voi, baci. Grazie, ciao. Baci, ciao. Grazie, che bravi sono, troppo bravi. Poi adesso ho già bevuto tanto perché devo drenare, è troppo bella. Io invece in conclusione vorrei fare un appello. Un appello, sì, te lo concedo, dai. Caro José Mourinho. lo sapevo. Nel prossimo futuro, sì, ti prego, torna. E io ti posso rispondere già come risponderebbe José. Perché no? Perché no, ti risponderebbe. Beh, il nostro tempo del nostro RadioTube è proprio finito. Abbiamo solo qualche secondo per ringraziare Pietro La Corte in regia. Sì, e ma stai lì, no, fino no, a domani alle 15. Alle 15 stai noi lì. Ci troviamo con una nuova RadioTube Star. Straordinario. A domani alle 15.